All time rock and roll, bentornati. E siamo bentornati in a tutti. Siamo sempre meno, sì, perché abbastanza, è un po' un gruppo un po' ridotto oggi. Sì, pochi ma buoni, come vero, si suol dire. Vero. Abbiamo una special guest per ora al momento alla regia. Franco il Patru. Eccomi. Naturalmente io sono il Luke e su regia il maestro Paolo Pacelli. Grazie al maestro, editore e anche regista, ma mi fa piacere. Sì, sì, il bello della radio è proprio questo, saper far tutto. È infatti, vero, è vero. Infatti. Infatti, tra un po' arriverà comunque il nostro tecnico, il Bindo. Sì, e oggi, infatti, una quarantina di minuti. No, mi ha detto, stavo calcolando il suo, sto arrivando più o meno. Il mio è peggio. Il mio, sì. Ma sei giustificato, te vieni da Arezzo. Beh, sì, sei... sì, dai, c'è quella mezz'oretta, gioco in quella 20 minuti, mezz'ora di viaggio. Ma sai, c'è il traffico. La cosa del genere. Puoi trovarti la carta del traffico. Beh, è vero, vero. Alle mezzanotte, traffico. Comunque oggi manca appunto uno speaker, quindi Valerio, e un tecnico che è Mirko. Sì, sono andati a stroncarsi tibia e perone. Esatto, anche, ma sai, è già mezzo rotto. Vanno a finire di rompersi definitivamente. Almeno vediamo. Noi iniziamo ugualmente, non ce ne frega niente. Ovviamente. E facciamo come di consueto, iniziando con il compleanno. Sì, sì, il primo dei due compleanni. Già. E lui è John Anthony Frusciante Junior, attenzione importante, Junior. Junior. Nato a New York il 5 marzo del 70, è un chitarrista e cantautore statunitense, conosciuto soprattutto per aver fatto parte dei Red Hot Chili Peppers. Dall'88 al 92 e nuovamente dal 98, quindi 6 anni dopo si è riunito, al 2009, pubblicando 5 album con il gruppo, ed è stato introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame il 14 aprile del 2012 come ex membro di Red Hot Chili Peppers. Attenzione perché ci ha smentito. Io mi sono un attimo fermato perché ci ha smentito clamorosamente. Salve, ben arrivato, buongiorno. Salve, ciao amici. Buongiorno. Ciao. Lei è? Fatto colazione? Sì. Cappuccino, pasta, sì, sì. Tutto ok. Un po' di vino. Cosa? Dopo la palestra. Pizzantino, col cantuccio. Comunque, carissimo John, tanti auguri. Loro sono i Red Hot Chili Peppers con Scar Tissue. Scar Tissue that I wish you saw. Mr. Know-it-all, I'll close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share, with the birds I'll share this lonely view, and with the birds I'll share this lonely view, and push me up against the wall, young tuck girl in a push up, bro. I'm falling all over myself to lick your heart and taste your heel. Cause with the birds of the shed, it's the lonely view. With the birds of the shed, it's the lonely view. With the birds of the shed, it's the lonely view. Wave goodbye to Maw and Paul, cause with the birds of shed, with the birds of shed, it's a lonely view. With the birds of shed, it's a lonely view. Soft spoken with a broken jaw, step outside but not to brawl. And autumn sweet wind, call it fall, I'll make it to the moon, never have to crawl. And with the birds of shed, it's a lonely view. Dot Chili Peppers con la loro Scarti Su. Continuiamo con il secondo compleanno e parliamo di Alan Clark, nato a Great Lumley il 5 marzo del 52. Che bello Great Lumley, senti come suona bene. È vero, bel paese, eh? Non so dove sia nella mia ignoranza, però suona bene. Sì, ora vado a vedere se ci si fa una vacanzina, Ma quasi quasi. Guarda, magari è in mezzo alla palude. Sì, non... È un tastierista britannico, uno dei membri della rock band Dire Straits. Dopo una brevissima esperienza nei Jordi di Brian Johnson, piccolo esponente del rock anche lui, negli anni 70, entrò poi a far parte del gruppo guidato da Mark Knopfler in occasione dell'album Love Over Gold dell'82 e continuò a lavorare con i Dire Straits fino al loro scioglimento nel 95. Clark ha collaborato con Mark Knopfler anche per alcune colonne sonore, tra cui quella del film Local Hero, in cui peraltro fa una breve apparizione come comparsa nel ruolo di pianista degli Acetones, una band scozzese. Clark inoltre ha lavorato anche con David Knopfler, il fratello di Mark, nei suoi album da solista. Beh. E essendo lui il pianista non possiamo far altro che mettere Walk of Life. Walk of Life, Dire Straits. Continuiamo con la seconda parte della storia del 1969 e vi parliamo di Get Ready, che è il secondo album in studio dei Rare Earth, uscito appunto nel 69. La versione album di Get Ready è stata spesso eseguita per intero alle riunioni dei college, durante quei festini, immagino, abbastanza pirateschi, abbastanza molto selvaggi, abbastanza molto coinvolgenti, abbastanza molto bindi. E è stato un disco precursore e poi naturalmente la versione modificata sarebbe diventata una hit pop di successo. Rare Earth, Get Ready. We'll be right back. Get ready, Rare Hertz. E adesso andiamo avanti con la seconda canzone della storia del 1969, parte 2. Bad Moon Rising. La tornano, i mitici. I mitici. Quante ne parleremo di loro? Belli che sono. 20 canzoni metteremo. Cioè, di loro, di lui, perché lui, sì. Lui canta e lui scrive. Poi sì. gli altri sono niente. Però, per di più. No, beh, chiaramente no. Ma comunque, Bad John Moon Fogerty. Rising, la storia di una luna cattiva che manda i suoi presagi di morte, terremoti, uragani, in particolare un apocalisse. Olè. Mamma mia. La canzone ebbe un gran successo e fu al centro anche di un fraintendimento sul testo, questa è carina, ascolta, dovuto ad una cattiva percezione del canto di Fogerty. Il testo dice "There is a bad moon on the rise", cioè c'è una luna cattiva che sta sorgendo. E fino a qui va bene. Ci siamo, sì. Ma molti capirono "There is a bedroom on the right", quindi ovvero c'è un bagno sulla destra. Tu quando entri, scusi, dov'è il bagno? E parte e questa poi canzone. È sempre sulla destra, come mai? No, io sono sulla sinistra. Vabbè, no, vabbè, via. Creedence Clearwater Revival e la loro Bedroom on the Right. Un bagno sulla destra. Scusi, c'è un bagno e parte questa canzone, giustamente. E uno si avvia verso il bagno. Bedroom on the Right, quindi felice. C'è un bagno, c'è un bagno sulla destra. Prego, vada. Space Oddity è una canzone scritta da David Bowie e pubblicata come singolo l'11 luglio 69. Oltre ad essersi piazzata nei primi posti in classifica due volte a distanza di 6 anni, la sottoscritta detiene il primato come singolo di David Bowie più venduto nel Regno Unito. E anche dopo tanti anni rimane sicuramente una delle sue canzoni. E bravo note. David, rifacciamoci gli orecchi. Space Oddity.

rilasciato come singolo a fine del 1969. Vieni, tranquillo. Grazie. Diventò il primo singolo ad entrare nella top 10 negli Stati Uniti. Ti posso abbracciare? No. Lo sto già raggiungendo facendo. La numero 9 della Billboard Pop Single. Hey! Santana, Heavy Ways. Santana, Evil Ways. Continuiamo con i Led Zeppelin. Li nominiamo per la prima volta da quando facciamo la storia. Sì, vero. Perché è un gruppo che è venuto fuori proprio a fine anni 60. Esatto. E iniziamo subito col botto perché parliamo di Whole Lotta Love. Beh, è una, come tutti sapete, è una delle più famose canzoni del gruppo hard rock. E vi è contenuta nell'album appunto Led Zeppelin del 69. Il brano ho notato una cosa: in quel tempo erano molti gruppi che chiamavano il primo album come il gruppo. Sì, si chiamavano il gruppo e poi magari davano il nome del gruppo. Cioè anche Santana, Santana, Led Zeppelin, Led Zeppelin. Sì, è vero. Andava di moda così, anche perché magari non erano ancora del tutto conosciuti e faceva più impatto, sì. Vero, probabile. Quello è il disco dei Led Zeppelin. Magari se gli davano un titolo un po' più per me proprio devo. Ah, bello, Led Zeppelin, chi sono loro? Magari c'era questo piccolo problema che andavano oltre la pubblicità. Penso che avranno risolto poi. direi proprio di sì. Comunque il brano è una rievolazione di You Need Love del 62 del bluesman Muddy Waters. È la prima traccia del disco, nonché un famoso singolo della band. Infatti la canzone si è classificata al 75esimo posto nella classifica delle 500 migliori che non è male, canzoni secondo la rivista Rolling Stone. Whole Lotta Love, Led Zeppelin. You need cool air. Baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school. Way down inside, honey, you need it. I'm gonna give you my Led Zeppelin. E adesso continuiamo sempre il tuo amico del rock. Sì, il mio amico, il mitico Pete Townshend. Parliamo di U e della loro Pinball Wizard. Attenzione, perché anche qui alla fine c'è un simpatico aneddoto, c'è una, è molto carina la cosa. Comunque, uno dei brani storici della rock opera del 1969, Tommy, scritto da Pete Townshend, interpretato nella versione cinematografica diretta da Ken Russell nel 19.775, amici, pensate un po', erano veramente avanti, era una cosa pazzesca. Il 19.775. Sto scherzando, errore di battitura, chiaramente 1977. Durante le riprese di Pinball Wizard, gli Who spaccarono gli strumenti, e qui arriva l'aneddoto carino, ma nella foga e nel delirio agonistico una delle chitarre di Townshend ferì piuttosto seriamente la testa di una ragazza, purtroppo portata in ospedale e dimessa subito. Poco dopo, per fortuna, tornò subito sul set con una vistosa fasciatura, andò da Townshend e gli disse che era orgogliosa che la sua testa fosse stata spaccata da lui. Townshend, incredulo, le regalò la sua chitarra. Ah, che pensavo gliene avesse data un'altra di chitarra da te. Yahoo! Pinball Wizard! Chi? Since I was a young boy, I played the silver ball from Soho. plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine, feeling all the bumpers, always playing clean. Plays by intuition, the digit counters fall, that deaf dumb and blind kid sure plays a mean pinball. Pinball wizard, it has to be a twist. A pinball wizard's got such a sufferer. How do you think he does? I don't know. What makes him so good? Ain't got no distractions, can't hear no buzz and bells, don't see no lights flashing, plays by sense of smell. Sì, ma quella cosa la possiamo fare anche adesso, dopo Bindo, sì. Se vuoi, tipo? Anzi, saluto Giulio, il nostro carissimo amico che... Nando. Quindi, esatto. Amico, ragazzi, nonché fratello di Valerio, tra le altre cose. Il più grosso bussatore di carte della storia. Gran giocatore di carte. Sì, sì. Davvero. Comunque. Specialmente a scopone scientifico. Andiamo avanti. È il numero uno. È imbattibile. Bravo, no, è bravo, davvero. Tatticamente, bravo, bravo. Sciacquo. Ale Viola. Gimme Shelter è un brano musicale del gruppo rock britannico Rolling Stones. Nonostante la canzone non sia mai stata pubblicata su singolo, devi sapere, Patro, che Gimme Shelter è da sempre considerata una delle canzoni più rappresentative della carriera del gruppo. Beh, oddio, sì. E in generale della musica rock. Al punto, pensa un po', che la rivista Rolling Stone ha classificato il brano alla posizione 38, sempre citando la lista delle 500 migliori canzoni della storia. Buono, non male. E bravi i nostri Rolling Stones. Effettivamente. Mamma mia, Gimme Shelter dei Rolling Stones. È finita, Beppe. È finita, il cielo è azzurro sopra Berlino. Sopra Foiano. Sopra Foiano. Domenica. Domenica c'è l'azzurrissimo. Già, ricordiamo. Cioè, azzurro, buoni, fermi. Nel senso di condizioni meteorologiche. Ah, subito, L'ho guardato. No, perché è bene riprendersi. L'ha detto. Ricordiamo anche domenica l'ultima. L'ultimo giornata corso, di carnevale, sì, sì. L'ultimo corso di carnevale, quello più bello, quello esatto, più lungo, più importante, quello più dove sentito. Verrà eletto il carro vincente. Chi lo sa? Io lo so, però non ve lo dico. Ma. Non vi voglio togliere la sorpresa. Ma voglio vedere. Voglio proprio vedere. Comunque, abbiamo finito la storia del rock del 1969 parte 2. Ancora 10 minuti con noi e andiamo con le nostre citazioni, quindi le frasi più belle, più importanti, più significative di tutti coloro che fanno parte del mondo del rock. Esattamente. Lui è Tom DeLonge, che molti conosceranno come chitarrista barra cantante dei Blink 182. Invece in questo caso è dei Angels and Airwaves, un gruppo molto carino, a me piacciono molto, che una volta ha detto: ognuno di noi ha una sua storia da raccontare e qualcosa di ancora più grande da lasciarsi indietro. The Angels and Airwaves, Everything is Magic. Everything is Magic, loro erano gli Angels and Airways con Tom DeLonge, cantante sempre non di Blink 182, ma in questo caso di loro. The Angels and Airways. Nice. Tom DeLonge, la piava DeLonge parecchio. Ah, DeLonge. Cioè, nel senso, la piava molto DeLonge. Punk significa libertà musicale, è dire, fare e suonare ciò che ti pare. Sul dizionario Webster, Nirvana significa libertà dal dolore, dalla sofferenza, dal mondo esterno. È quanto di più vicino alla mia definizione nel punk rock. Kurt Cobain. DeLonge, ma... DeLonge, ma parecchio DeLonge. I could eat your cancer when

grandissimo Riccardo Marasco. Teresina. E la sua Teresina. Non ti ci porto più, vai. Basta, ti ci porto più. Bindi, non ti ci porto più. Fantastico. Risalutiamo e... Risalutiamo sì. Milva Bruschi. Esatto, la sua dedica, la sua canzone. Esattamente. Anche perché, come magari avete intuito dalla sigla, purtroppo siamo giunti in chiusura alle 20.04, anche oggi. Ci salutiamo, ricordiamo la pagina Facebook dove appunto potete sempre fare le vostre dediche e il podcast di questa puntata un po' ridotta in quanto siamo solo io, il padre, canta meglio che il nostro carissimo tecnico Bindi, che oggi si è dimostrato molto molto competitivo, non per questo scialba di argomenti però, anche se siamo meno esattamente, anzi è venuta molto più ordinata di altre volte. Oggi abbiamo Pinocchio che senza lucignolo riesce a fare il suo lavoro meglio. Un saluto al mio collega adeguatamente. Ciao biondo. Ragazzi, noi vi salutiamo, ci risentiamo se volete come sempre mercoledì prossimo dalle 19 alle 20. Ciao a tutti. Ciao.